una scienza che oggi dovrebbe aggiornarsi parecchio, perché mentre le mostruosità di cui si occupava all'epoca erano quelle cosiddette reali, cioè i parti mostruosi, le meraviglie della natura, chiamiamole così, oggi ovviamente il teratologo del 2000 si deve occupare di tutti i mostri che hanno occupato i mass media, e quindi di un mostro multimediale, dal cinema al fumetto, ai giochi per computer, oltre che nella narrativa, dove si è sempre trovato a suo agio il mostro. La teratologia quando nasce? Nasce prima o dopo che la letteratura, quantomeno, comincia a creare o ad occuparsi di mostri? Beh, nasce prima, perché la teratologia è appunto legata alle prime paure dell'uomo per quello che non riesce a capire, cioè appunto per esempio allo sconcerto che ha l'umanità quando vede nascere dei bambini malformati, deformi, eccetera, e quindi si chiede come è possibile che nel disegno dell'universo, anche in chiave religiosa, poi venga a presentarsi qualche cosa di così spaventoso. E invece, se vogliamo togliere proprio alla teratologia cosiddetta in modo proprio tutte le leggende, no, che ci sono sempre state in tutti i popoli, sui mostri, sulle creature favolose, però diciamo la narrativa, la letteratura se ne occupa molto dopo, in modo approfondito, ovviamente a partire dai grandi mostri dell'era della ragione, mostri che incominciano a mettere in discussione proprio quel sistema di pensiero apparentemente perfetto che appunto è quello, potremmo dire, illuminista. E quando le conquiste della scienza incominciano a essere decisive nella storia dell'umanità, anche le paure per i mostri che possono creare incominciano a moltiplicarsi. Ma la teratologia, soffermiamoci ancora per un istante su questo perché ci servirà, si limitava a raccontare e a meravigliarsi o cercava anche di spiegare il mostro? Cercava più che altro di catalogare. Un'impresa tra l'altro impossibile, perché erano talmente tante le varietà di mostri da prendere in considerazione che non è mai stato possibile fare una vera enciclopedia del mostro. E ovviamente a questi mostri veri, che erano appunto, come dicevo, i bambini nati con degli handicap piuttosto gravi, e si aggiungevano i mostri favolosi, quelli che si raccontava si nascondessero in quelle parti del mondo che all'epoca non erano ancora esplorate. Il famoso Yeti. Anche lo Yeti, ma anche animali più semplici, magari meno umani nell'aspetto. Cioè, immaginato di tantissime creature che poi non esistevano, in realtà poi sono state scoperte successivamente con aspetti per niente spaventosi e paurosi, oppure di popoli, intere popolazioni, si diceva che magari avevano delle membra messe nel posto sbagliato, non so, gli occhi non al posto giusto, le braccia, insomma c'è tutta una varietà infinita di queste credenze tra la leggenda e la superstizione, che però venivano anche studiate proprio come se fosse appunto una scienza, la teratologia, che si poteva mettere d'impegno a catalogare cose che forse in gran parte non esistevano, quindi una scienza anche molto bizzarra vista con gli occhi nostri di oggi. Allora, Vincenzo Tagliasco, che ha una catalogazione a sovrinteso in qualche modo, noi possiamo cominciare col dire una cosa, se crede banale: mostro corrisponde più o meno a ciò che è fuori dalla norma, no? Sì, sì, io lo considero una persona, io ho fatto una categorizzazione, ho diviso tutti gli esseri umani pensati dalla letteratura, dalla fantascienza, dalla scienza, eccetera, in 36 categorie. E quindi in ogni categoria io immetto i personaggi che si ritrovano dai fumetti ai libri di scienza o di medicina. Ecco, via. Categorie di che tipo? O perlomeno con quale norma ancora? Ma una volta? Io comincio dalla categoria numero uno, che è l'essere nato da portatore femminile a seguito di rapporto sessuale, ossia diciamo quello che più o meno consideriamo l'essere umano, infatti, tra virgolette, normale. Per finire la marionetta, che la 36esima, i simulatori umani, le marionette, che sono la 35esima e la 36esima categoria. E lì in mezzo ci sono tutte le variazioni, sia esseri umani che in qualche maniera hanno delle parti biologiche al loro interno, sia quelli che non hanno parti biologiche, tipo, non so, i robot, i teleoperatori, gli esoscheletri e cose di questo tipo. Senta, abbiamo un piccolo problema, immagino, perché se diamo appunto per certo che mostro corrisponde a essere fuori norma, come la mettiamo quando la scienza sposta i confini della norma, che è cosa che fa, diciamo, con una certa regolarità, mi pare, in questo secolo. Sì, infatti, diciamo, il trucco delle mie categorie è quello di non definire il fuori norma, nel senso che per me c'è un continuum, perché poi adesso, diciamo, anche con i sistemi di fecondazione artificiale, con le clonazioni, con i trapianti, eccetera, la definizione di normalità è una definizione molto vaga. Preferisco non definire la normale normale, ma preferisco dire ok, uno rientra in una certa categoria, quando il giorno in cui una marionetta gli daranno il soffio di vita diventerà anche lui un essere umano. Senta, fino a che punto, Vincenzo Tagliasco, soprattutto oggi direi, ma forse la domanda vale anche per il passato, mostro essere artificiale vanno a coincidere? Questo, diciamo, il termine di artificiale io lo considero non tanto a livello di classificazione, ma come il tentativo della comunità degli esseri umani di costruire qualcosa a loro immagine e somiglianza. Quindi per me l'artificialità è ogni qualvolta un essere, uno scienziato, un letterato, un poeta, eccetera, si inventano degli esseri che in qualche maniera hanno qualche somiglianza con l'essere umano. Allora, Antonio Caronia, intanto si è unito a noi anche Domenico Gallo, che saluto. Antonio Caronia, lei immagina il nome che io sto per fare a questo punto? Che no, ce ne potrebbero essere tanti. Facciamo il più classico, Frankenstein, la creatura di Frankenstein, per essere corretti. Ecco, il primo tra i mostri artificiali, nel senso anche in cui che indicava poco fa Vincenzo Tagliasco, che noi dobbiamo considerare? Forse il primo no, perché Tagliasco nella sua opera eruditissima e che ci ha abbagliato tutti con la con la vasta quantità di materiale che ha messo insieme, e anche con l'acume e l'arguzia con la quale ha costruito queste categorie, probabilmente nel libro di Tagliasco, sfogliando, se ne trova qualcuno precedente anche a Frankenstein. Però Frankenstein, come giustamente dice anche Giovannini nel suo libro, eccetera, insomma, è un paradigma, cioè all'inizio dell'Ottocento, cioè quando la rivoluzione industriale comincia ad affermarsi, o perlomeno incomincia a cambiare i nostri paesaggi fisici e mentali, casualmente una autrice diciannovenne, la moglie del poeta Shelley, che giustamente andrebbe ricordata più col suo nome, non quello di Shelley, cioè Mary Wollstonecraft, scrive Frankenstein, cioè, quindi Frankenstein diventa, penso che tutti quanti sappiamo che la Mary Wollstonecraft, cioè la Mary Shelley, era stata molto impressionata dagli studi sulla elettricità animale di Galvani, quindi immagina che si possano assemblare o mettere insieme delle parti di cadaveri, eccetera, o di comunque, diciamo, come dire, di materiale biologico inerte per creare una nuova vita, e quindi con questo romanzo comincia il mostro tecnologico in qualche modo, più che l'ibrido c'era già da prima, aveva da sempre popolato miti e leggende, incubi e sogni degli uomini fin dai tempi probabilmente del Paleolitico, comunque sicuramente dall'epoca neolitica, e mentre invece qua abbiamo forse il primo mostro tecnologico, ecco, mostro nel senso di sì. Quindi da lì comincia una storia, sviluppo che io però devo dire, se posso introdurre questa osservazione perturbante, credo che sia al suo termine, cioè credo che i libri di Tagliasco, di sono Giovannini e tanti altri che abbiamo fatto in questi anni siano una cartografia del passato più che del presente e del futuro, perché la mia idea è che la categoria di mostruosità, diciamo, sia via una rapida decadenza, insomma, in questo... Perché? Perché in questo secolo, si è cominciata ad affermare una cultura della possibilità, aperta probabilmente da Musil con il suo uomo senza qualità e proseguita fino agli esiti tecnologici degli ultimi due decenni, che in qualche maniera dissolve, come giustamente anche voi prima dicevate, le categorie di normalità e di anormalità, per cui il mostro come qualcosa che secondo l'etimologia va mostrato, cioè va esibito, va fatto vedere, in qualche maniera pervade ormai l'intera società, cioè siamo tutti in qualche misura mostruosi e quindi non c'è più nessun mostro, quindi non c'è più nulla che, cioè tutte queste paure del gotico e della della letteratura gotica, del cinema, eccetera, eccetera, che ci hanno accompagnato per questo secolo, diventano in qualche maniera delle categorie letterarie, delle citazioni del passato, perché le possibilità che oggi si aprono con la tecnologia, dalle nuove tecnologie della riproduzione fino alle tecnologie di inserzione di parti artificiali nel corpo umano, ci abituano sempre di più a mettere in soffitta il vecchio concetto di uomo come essere creato da una pura evoluzione, da un puro processo biologico, per diventare invece un uomo che ingloba dentro di sé a pari titolo, almeno a pari titolo, se non fosse con una certa preminenza, di artificiale e di naturale. Ecco perché credo che l'idea del mostro è in qualche maniera è giusto mantenerla come un aggancio a questa grande fase di transizione che è stato il XX secolo, ma probabilmente va ad estinguersi in quanto tale, come categoria classica, come qualcosa che ci disturba e che non possiamo accettare nella nostra normalità. Sentiamo nella normalità ci sono molte cose. Ecco, sentiamo se è d'accordo con lei il suo coautore, Domenico Gallo. Certamente sono d'accordo con Antonio Caroni. Volevo magari esemplificare un po' di più quello che Antonio diceva sicuramente alla fine, cioè che sostanzialmente mostri lo siamo diventati un po' tutti, quindi si perde la qualità della diversità, no? Sì. Della maggioranza che ha delle caratteristiche comuni e di una minoranza che non le ha, no? Specialmente questo dal punto di vista esteriore, no? Dell'esterno, no? Di come le persone si presentano. Siamo dagli anni 80 in poi specialmente in una cultura e in una società che fanno uso di chirurgia estetica, dove chi ha gli occhiali si mette le lenti a contatto, dove una sorta di ingegneria del corpo è diventato un fatto assodato, no? E quindi le persone che possono che non sono soddisfatte del proprio corpo possono modificarlo, possono apparire diversi. Da un punto di vista non estetico invece funzionale, la bioingegneria di questo Tagliasco sicuramente è una persona che ha grandissime informazioni in questo campo. Sempre di più le protesi sono diventate sofisticate, sono diventate in grado di riportare un individuo che non aveva la normalità, ma addirittura cominciamo a pensare che non necessariamente dobbiamo fermarci ai parametri naturali, no? A quello che sono le caratteristiche della normalità, ma possiamo anche desiderare di più. E in un futuro le protesi non daranno sostanzialmente la gamba a chi l'ha perduta, ma forse ci forniranno prestazioni che sono migliori, sono più performanti, come si usa dire adesso. Una curiosità, Domenico Gallo, da sottoporle. Fine del concetto di mostro, così come noi l'abbiamo inteso fino a questo momento, significa secondo lei almeno messa in crisi della fantascienza? Perché la fantascienza fin qui ha preso il posto della mitologia, della religione, sì, anche nella creazione di mostri. Io vengo a queste tesi da studi proprio sulla fantascienza, sì, sulla letteratura popolare, no? La fantascienza effettivamente in questi ultimi anni, dopo il cyberpunk, si sta un po' disgregando, no? Si sta mescolando alla letteratura e è rientrata pienamente nel fenomeno postmoderno, no? Tutti i generi in un qualche modo tendono a perdere i propri confini e sostanzialmente a alimentarsi l'uno con l'altro, no? E anche la fantascienza fa molto di questo, no? Perché la grande forza della fantascienza, secondo me specialmente dall'inizio del Novecento, da quando poi nasce come genere, no? In poi, fino a circa agli anni 60, è proprio quella di parlare della tecnologia, cioè parlare di quello che è il fenomeno più importante della vita delle persone, no? Siccome le tecnologie in un qualche modo cambiavano fortemente gli usi, i costumi, i modi di vita delle persone, no? Attraverso radicalizzazioni narrative, potremmo chiamarle, no? Spingere all'estremo alcuni fattori, no? Ma al di là del senso del futuro, che è quello che anima la fantascienza più di ogni altro genere, è proprio il presente che è quello che è l'argomento principale della fantascienza. Questo interesse per il presente, questo interesse per il corpo in particolare, in questo caso quindi il corpo del mostro, ma che è anche l'alieno sociale, come poi dice giustamente Giovannini in una parte del suo libro che ricorda ad esempio gli anni 50 negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, non è più peculiare solo della fantascienza, quindi, ma tutti i generi letterari, tutti i generi anche fumetti, eccetera, eccetera, il cinema in un qualche modo, questi generi non sono più dei contenitori stagni, chiusi, ognuno con la propria grammatica e le proprie regole, no? Ma stiamo vedendo un po' in tutta la cultura postmoderna un attraversare di personaggi, di figure retoriche che vengono ridefinite, che escono e ritornano, eccetera, eccetera. E il mostro ha generato probabilmente, proprio come figura letteraria, questo tipo di dinamica, specialmente come anche lì, diciamo, tu bene giovanile, negli anni 40, negli anni 50, il film della Hammer, quando ritornano i mostri che erano morti, ritornano a vivere e quindi diventano personaggi permanenti dell'immaginario. Ecco, una curiosità da rivolgere a questo punto a Fabio Giovannini è che molti di quei mostri tornano a vivere anche oggi. Voglio dire, è molto probabile, come sosteneva Antonio Caronia, che il concetto di mostro vada, se non a distinguersi, a ridefinirsi profondamente in questa famigerata fine secolo. Quel che è certo è che questo secolo è stato il secolo dei mostri, cinematograficamente e non solo cinematograficamente parlando, ma anche di mostri che tornano dal punto di vista del cinema. Godzilla è un nome fra gli altri, ma insomma anche marziani e alieni di ogni sorta, insomma, conoscono vari cicli di esistenza sul grande schermo. Sono molto seriali i mostri, sì. Perché un po' una tendenza alla normalizzazione invece che c'è stata in questo secolo. E al contrario di quello che dicevamo prima, io temo che ci attenda anche per il 2000. Io sinceramente, visto che stiamo parlando anche in un clima bellico in questo momento, noto che continua lo stile della guerra di sempre, che comprende anche la mostrificazione dell'avversario. Se noi guardiamo le propagande dei vari schieramenti in campo, notiamo come venga mostrificato in tutti i modi l'antagonista, cosa che appunto purtroppo non è nuova e temo, nonostante si possa sperare in periodi più pacifici e tranquilli, non è stato con la caduta del muro di Berlino che siamo entrati in questo nuovo mondo paradisiaco. Ma non voglio divagare su questo, però ricordare una cosa, appunto, che anche l'immaginario verso i mostri ha avuto sempre un atteggiamento in fin dei conti poi normalizzatore del mostro, tant'è che alla fine di quasi tutti i film di questa ormai lunga storia dei mostri cinematografici il mostro muore, viene distrutto, però che cosa ha dovuto inventarsi anche lo stesso meccanismo del mercato cinematografico? Il mostro che poi ritorna in un seguito e scopriamo che invece non era morto del tutto, ma magari dalle sue ceneri era possibile farlo risorgere, come nel caso di Dracula, oppure che era rimasto congelato, oppure sì, Frankenstein, il mostro, era rimasto congelato in un blocco di ghiaccio e lo si poteva riportare in vita, oppure Godzilla che ritornava dall'oceano in cui era sparito e continuava le sue imprese. Insomma, il desiderio poi dello spettatore, del pubblico, di rivedere il suo mostro preferito, perché in gran parte ci si identifica, ecco, io sono d'accordo su questo aspetto della convivenza del mostro in noi, non tanto sulla scomparsa dell'idea di mostro per i prossimi anni, ma io vedo che forse si prende più consapevolezza che dentro ognuno di noi c'è un po' di mostro, c'è una parte mostruosa con la quale bisogna fare i conti. E il cinema, a suo modo, l'immaginario, hanno giocato con questo, riproponendoci poi il mostro che ritorna, che riappare, oppure nei film, secondo me, più, chiamiamoli moderni, più avanzati, che hanno anche operato delle rotture a partire dagli anni 70-80, il mostro invece non muore. Pensiamo anche a un mostro, in questo caso senza deformità fisiche, ma invece tutte psicologiche, no? Hannibal the Cannibal, lo psichiatra, la protagonista di Senso degli Innocenti. Ecco, alla fine del film si allontana libero e pronto a fare un altro banchetto umano, e tra l'altro oggi ci informano le cronache che sta per uscire il nuovo romanzo di Harris, e quindi penso che, come era logico, avremo anche il prossimo film. Senta, Giovannini, lei sostiene una tesi interessante nel suo libro. Lei scrive: i mostri sono figli della crisi, in qualche modo nei periodi di crisi sociale e politica di questo secolo c'è stato come un corrispondente picco di mostri, parliamo di piccolo schermo ancora, ma anche di fumetto, credo. Sì, un po' in tutte le forme possibili di consumo, anche popolare, di comunicazione, di narrazione, c'è una coincidenza effettiva. Quando le certezze incominciano a vacillare, quando quello in cui si credeva fino al giorno prima viene messo in dubbio, riappaiono potentemente i mostri anche nelle forme più semplici, come possono essere appunto quelle di una serie di film o di telefilm, o in un successo di una collana di fumetti horror, ecco, c'è sicuramente questa coincidenza, è stata anche fatta notare come, non so, ecco, prima Gallo citava il film della Hammer, gli anni 50, ecco, il successo della Hammer incomincia proprio con un film su Frankenstein, La maschera di Frankenstein, che è del 56, esce tra il 56 e il 57, proprio nel periodo della crisi di Suez, dell'invasione dell'Ungheria, insomma, in cui c'era il primo grosso momento di crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Faccio soltanto una piccola notazione, visto che abbiamo parlato di guerra. Paradossalmente invece la Seconda Guerra Mondiale costrinse un po' Hollywood in particolare ad autocensurarsi. Si noterà, chi li riguarda oggi, che nei film anche di guerra, proprio film bellici dell'epoca, non si vede mai né sangue né particolari raccapriccianti, eccetera. C'era una sorta di regola non scritta, che quindi riguardò anche molto i film dell'orrore, per cui non si doveva mostrare troppo sangue, troppa violenza in un momento in cui la violenza era vera, reale e non simulata. E quindi ecco, quello è magari stato un periodo di crisi in cui c'è stata una sorta invece di autocensura verso la rappresentazione del mostruoso. Lo volevo notare perché... No, è giusto, poi ci porterebbe anche riflessioni sull'oggi che non sarebbero fuori di luogo, peraltro. Forse molto lunghe. Vincenzo Tagliasco, forse dovremmo fare anche una distinzione importante fra mostro e mostro, in questo caso continuiamo a parlare di mostro del cinema, della letteratura e non soltanto. I mostri artificiali non necessariamente, anzi non sono bestie, noi abbiamo parlato di Godzilla, potremmo parlare di dinosauri poco fa, nel senso che mettono in crisi, se non vado errata, anche il concetto di intelligenza, perché sono quasi sempre creature, chiamiamole così, di grande intelligenza. Guardi, c'è un bellissimo personaggio, Cyber Six, che purtroppo è un personaggio di fumetti, che purtroppo... Non famosissimo, ma straordinario. Straordinario, perché però c'è stato le pubblicazioni proprio in questo mese, infatti da questo mese non viene più pubblicato in Italia, in cui lei è bellissima, il personaggio di Cybersix, soltanto che è stata costruita geneticamente nel classico laboratorio dell'Amazzonia, eccetera, eccetera, da von Richter, che era uno scienziato delle SS, che riusciva a rimanere giovane. La cosa interessante di questo personaggio è che in realtà anticipa un po' il discorso che fa Caronia, che forse questi libri qua finiscono col secondo millennio, perché poi nel terzo millennio non avranno più significato, nel senso che io temo, però qua più da ricercatore che non da scrittore di questi libri, che il comunque si frapponga con le commissioni di bioetica, con le iniziative governative, eccetera, eccetera, la tecnologia che ci permette di costruire degli esseri artificiali è talmente a basso costo, è talmente facile, che potrebbe essere, diciamo, diffusa a livello planetario con un'estrema semplicità, facilità. Se un conto era costruire una bomba atomica negli anni 50, che era difficile, richiedeva grandi investimenti, eccetera, però un laboratorio, la von Richter, che dà luogo a questi esseri bellissimi come Cyber Six, che però non sono nati da rapporto sessuale normale, potrebbero essere, diciamo, più comuni di quanto si pensi. E questo personaggio qua, Cyber Six, nato in laboratorio, quindi considerato in un'accezione classica un mostro, in realtà poi aveva una doppia vita, e come Adrian, in panni maschili. Esatto, faceva un personaggio maschile che insegnava Borges, Pessoa, eccetera, a scuola. Quindi in realtà già i fumetti, la fantascienza prefigurano queste figure, diciamo, intelligenti, ma non, tra virgolette, naturali. Senta, anche io mi appello al docente di bioingegneria in questo momento, più che allo scrittore, è che questi segnali che vengono da mondi apparentemente considerati secondari, come la letteratura di genere cosiddetta, come il fumetto, come il cinema di genere anch'esso cosiddetto, comunque ci inducono a ripensare con una certa urgenza il concetto di essere umano con cui abbiamo convissuto. Io credo che se qualche partecipante ai commissari di bioetica si mettesse a leggere un po' di fantascienza e di fumetti, riuscirebbe forse, diciamo, ad imparare molto di più che non quello di rimuginare su se stessi, diciamo, delle concezioni che in qualche maniera sono più che altro valutazioni del passato e non, diciamo, elementi del presente, perché effettivamente quello che ci sta prefigurando questa tecnologia, che ripeto, è una tecnologia che è estremamente interessante perché è semplice. Ossia, 4-5 ricercatori, 4-5 miei allievi che vanno in giro un po' per il mondo, cioè, se si ritrovassero in qualche foresta dell'Amazzonia, forse, diciamo, non avrebbero problemi di costruire già adesso non degli esseri umani, però qualcosa che effettivamente, diciamo, io potrei metterlo in qualche categoria del mio libro. Antonio Carunia, io vorrei risentire, perché in effetti forse ha ragione, la provocazione che ha lanciato era tutt'altro che destinata a cadere nel vuoto, cioè forse il concetto di mostruosità staccato da quella che è la quotidianità reale forse non ha più molto senso a questo punto. Sì, beh, insomma, dico, io naturalmente sottoscrivo al millesimo quello che ha detto Tagliasco. Il Novecento, cioè questo secolo, ci ha abituato all'emergere, all'emergenza di tecnologie, cioè di procedimenti apparentemente, non dirò naturali, ma come dire, derivanti da una sorta di sviluppo automatico della, diciamo, ricerca e delle attività dell'uomo nei campi più avanzati, che hanno realizzato, deformandole forse certamente, ma con uno strano paradosso, che hanno realizzato molte dei sogni di ingegneria sociale nati in altri ambiti, nell'ambito politico, insomma. Penso alla questione del general intellect avanzata da Marx con una modalità ovviamente fortemente anticapitalistica, che invece il capitalismo in qualche modo, ripeto, a modo suo, e quindi con delle caratteristiche che forse, voglio dire, potremmo augurarci di poter correggere, ma che ha realizzato senza l'intervento di forze sociali antagoniste. Questo credo che sia una cosa che anche, diciamo, il pensiero critico, il pensiero antagonista di questi anni deve e sta già rielaborando, fortemente riflettendo. Ecco, questo credo che abbia molto a che fare con la questione del mostro e con la questione delle perché l'idea di mostro si ha in una cultura dominata fondamentalmente dal concetto aristotelico di necessità, cioè ci sono delle cose che hanno un loro ordine naturale, ciò che viola questo ordine naturale, questa necessità dello sviluppo, va accantonato, messo da parte, eccetera eccetera. Noi stiamo vivendo adesso nell'ultima fase di questa, diciamo, cultura, però viviamo una contraddizione, perché le possibilità che appunto la tecnologia, da quelle informatiche a quelle tecnologiche, e con un continuo avvicinamento e contaminazione tra i due campi, perché questa è la cosa più interessante, che anche nel libro di Tagliasco, nell'ultima parte, è molto ben documentata, insomma, no? Di queste macchine, eccetera. Ecco, allora questa cosa ci abitua sempre di più, inconsciamente, noi probabilmente non ce ne accorgiamo, crediamo di essere dominati ancora da questa idea di normalità estetica, eccetera, eccetera, ma invece il nostro inconscio, il nostro immaginario profondo, probabilmente accetta sempre di più delle cose che fino a ieri ci sarebbero sembrate impensabili. Io credo che sia questo con cui si deve fare i conti, voglio dire, senza escludere naturalmente, cioè, le cose che tentava di inserire Giovannini giustamente nel, diciamo, dibattito sulle preoccupazioni che oggi una cultura governativa, di governo del mondo ancora vecchia ci dà, e che è quello che poi genera insieme la pulizia etnica nell'ex Jugoslavia e i bombardamenti NATO su Belgrado. Queste sono entrambe, mi sembra che siano, risposte che non sono, non tengono conto di questa variazione dei dati, di questa mutazione dei dati a cui complessivamente la nostra cultura si sta avviando, insomma. Il mio, non dico monito, perché non faccio moniti a nessuno, ma il mio tentativo di centrare il suo problema, di attirare l'attenzione su delle variazioni infinitesimali, molto micrometriche a volte, secondo me, del nostro immaginario, che però ci avviano verso una, diciamo, situazione nella quale non possiamo più fare conto su categorie di, appunto, normalità, di, diciamo, sicurezza, eccetera, tradizionali, e in qualche maniera dobbiamo tutte quante ridefinirle. In questa situazione mi sembra che il mostro insieme, il mostro classico insomma, ci segnali come dire, l'emergenza di un campo di possibilità per la vita anche quotidiana che vanno tenute conto, insomma, di cui va tenuto conto di questo campo di possibilità. Ed ecco perché credo che tutto sommato, insomma, anche poi perché, voglio dire, insomma, i mostri si amano, insomma, noi Dracula e Frankenstein li abbiamo amati, insomma. Ecco, abbiamo ci sono dei mostri che però fanno paura, però ci sono amati. Dei mostri, Antonio Caronia, ma su questo vorrei sentire anche Domenico Gallo, se c'è ancora. No. Ecco, ci sono dei mostri che ci hanno, credo, fatto forse più paura di altri. Mi riferisco ai mostri ibridi, cioè a quelli che nascono letteralmente o dall'unione di una donna, in questo caso di una macchina, o di una donna e di un alieno, cioè, e ne abbiamo avuti esempi anche recenti, penso proprio a uno dei film di Alien. Questo filone anche è destinato a decadere, Caronia e Gallo? Ma secondo me invece questo no, cioè il libro Tagliasco ci dice una cosa, è un libro che dall'uomo alla marionetta è presente uno spettro fittissimo di categorie, e questo mi fa capire che più andremo avanti più sarà necessario introdurre nuove categorie tra l'una e l'altra, e quindi avremo un continuo di ibridi, sempre più ibridi tra una creatura e l'altra, no? Quindi questi li avremo ancora, perché saranno diventati una cosa normale, no? E quindi non ci faranno più paura? Non o forse so, sì. Ci faranno più paura, forse sì, forse no. È chiara una cosa, che noi cominceremo a vedere la diffusione di massa di questa cultura dell'ibrido, e non saranno più laboratori che stanno nella foresta amazzonica, ma probabilmente negli ipermercati, che faranno alle persone piccole chirurgie, piccole modifiche, piccoli innesti, sempre più. E questo noi l'abbiamo visto già prefigurato dalla fantascienza, che appunto, come dicevamo prima, tradizionalmente queste inquietudini, queste novità, le vede un po' prima degli altri generi. O contemporaneamente, ultimamente. Quasi contemporaneamente. Infatti. Ecco, io però vorrei sapere da Fabio Giovannini che fine fa in questo quadro quella che era una caratteristica dei mostri classici, perché se non vado errata il mostro inteso sempre come colui che è fuori norma era anche portatore di una certa carica trasgressiva, o sbaglio? Sì, ma infatti io non concordo molto su queste osservazioni ottimistiche sul futuro e su un immaginario che in qualche modo prefigurerebbe un mondo senza mostri. Innanzitutto perché ritengo che i mostri ci siano, ci saranno, e in parte non vadano assolutamente cancellati. Quello che io vedo anche di fronte alle novità tecnologiche è invece che si tende ancora di più di un tempo di normalizzare. Per esempio, è proprio il corpo, no, di cui stiamo parlando, sì. Anche spesso nella vostra trasmissione seguo questo dibattito. Il corpo può essere modificato e alterato dalle tecnologie sia per normalizzare magari chi è deforme. C'è stata la notizia per me agghiacciante dell'operazione di chirurgia plastica che si voleva fare su una bambina down per renderla accettabile ai suoi compagni. Oppure si può trasformare il corpo in un simulacro di bellezza e di giovinezza secondo dei canoni ancora una volta tradizionali. Però. Sì, beh, io penso, ecco, è vero che c'è anche il corpo modificato per renderlo diverso, alieno, come fa Orlan, ma ovviamente è lei, è un caso straordinario, è un artista, è una figura, se vogliamo, assolutamente eccezionale. No, ma intendevo anche che la perfezione può essere mostruosa. Ma appunto, quella che invece è predominante, su cui si fanno i quattrini purtroppo, siccome le tecnologie poi, anche se costano poco, anzi forse proprio perché costano poco, poi diffonde la macchia d'olio, è invece la chirurgia estetica della cantante Cher, tanto per dire, no? Che cerca di rimanere impossibilmente sempre giovane e immutata attraverso gli anni, è quello che sarà un po', ed è già l'incubo della normalità che viene addirittura proposta per via chirurgica. Io trovo appunto sicuramente mostruosi anche dei corpi che vengono manipolati in nome di questa idea della bellezza o della giovinezza, anche questa che risale a un'idea di normalità, di norma, che io insomma in qualche modo vorrei ancora avere la forza di mettere in discussione. E i mostri cinematografici, i mostri letterari, quelli dell'immaginario, un po' ci rimettono sempre in guardia, anche rispetto all'ingegneria genetica, a tutte queste, a questi orizzonti che sicuramente hanno degli aspetti affascinanti, ma anche nascondono dei terrori che non sappiamo nemmeno dove possano portare. Ecco, proprio il mostro dell'immaginario è sempre un campanello d'allarme, perché il mostro alla fine è sempre sofferente, questo è un punto che non dovremmo dimenticare. Anche i mostri classici, Frankenstein, Dracula, la mummia, l'uomo lupo, sono creature dolenti, non sono allegri signori un po' con i corpi un po' strani e deformi che si divertono magari a succhiare il sangue e a ammazzare le persone per bene. Sono invece tutti, anche il mostro più affascinante di tutto questo serraglio che abbiamo nominato, che è Dracula, perché appunto è dotato di eterna giovinezza, eterna vita, è però una creatura anche quella sofferente, costretta a una serie di limitazioni enormi, che può vivere in quel modo solo uccidendo altri esseri, eccetera, eccetera. Insomma, io ritengo che il mostro continui ad ammonirci, tutto sommato, ad inquietarci e a affacciarsi, secondo me, al 2000, magari chiedendo di ritornare ad essere visibile e non rimosso. Mentre una cosa che vorrei dire, concludendo rapidamente, il mostro in realtà, quello vero, il mostro appunto della deformità del corpo, è stato rimosso dalle nostre società, è stato cancellato in nome forse di un politically correct malinteso. Si cerca appunto di rendere uguale ai normali anche chi invece ha un corpo diverso, strano, bizzarro o persino deforme. Non credo che sia questa la strada giusta. Fermiamoci qui, lasciamo aperta questa discussione. Ricordiamo che i libri da cui siamo partiti sono Mostri di Fabio Giovannini, pubblicato da Castelvecchi, Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali di Vincenzo Tagliasco, che è uscito negli Oscar Mondadori, e Houdini e Faust, breve storia del cyberpunk di Antonio Caroni e Domenico Gallo, pubblicato da Baldini e Castoldi. Grazie ai nostri ospiti, buon pomeriggio a tutti voi. Partiamo per un luogo da dove, secondo il cinema, molti mostri sarebbero venuti, su Marte, nella pagina della scienza, con Rossella Castelnuovo. Di stabilire quali cose possono ibridarsi fra di loro e quali no. Allora, do la parola ad Antonio Caronia, che è teorico della comunicazione dell'immaginario scientifico, e tecnologico, collabora a diverse riviste e tra l'altro a trasmissione televisiva mediamente. Antonio Caroni ha particolarmente studiato proprio il cyborg, e con Mario Canali ha costituito l'associazione Reload e avrebbe dovuto portare qui, ma poi non, anche per la sede non l'abbiamo fatto, per così dire una macchina oracolo, nel quale fare un viaggio nel proprio cuore e per così dire avere una, poi, no? Un viaggio come risposta a questo viaggio dentro nel nostro cuore, e una sorta di responso della macchina in un pianto, un riso, qualcosa d'altro. La parola ad Antonio Caronia. Bene, che cosa mi resta da dire dopo il quadro concettuale generale molto apprezzabile che ha dato Remotti nel suo intervento, e dopo la pluralità di problemi e di figure e di interrogativi che mi sembrano tutti piuttosto pertinenti che ha posto Formenti, devo forzatamente in qualche maniera rimanere su questo, diciamo, terreno, perché io non sapevo cosa avrebbe detto questa mattina Remotti, ma anch'io sono stato favorevolmente colpito dal suo insistere su uno dei temi che avevo già deciso di affrontare in questa comunicazione, e cioè il tema e la, diciamo, questione della possibilità all'interno dell'esperienza contemporanea e delle, diciamo, riflessioni del quadro culturale diciamo, all'interno del quale ci muoviamo. Quindi partirò anch'io da qui, partirò da una citazione, se la trovo, di Musil degli anni 30. All'inizio dell'Uomo senza qualità, Musil fa una specie di paradossale, per i suoi tempi probabilmente abbastanza controcorrente nel suo contesto culturale, di elogio della possibilità. Mi è talmente piaciuta quando l'ho letta, insomma riletta, che ne ho adottato una piccola frase come firma per le mie comunicazioni in rete, nella rete telematica. Allora, dice Musil, il possibile non comprende soltanto i sogni delle persone nervose, ma anche le non ancor deste intenzioni di Dio. Un'esperienza possibile o una possibile verità non equivalgono a una esperienza reale e a una verità reale meno la loro realtà, ma hanno, almeno secondo i loro devoti, qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, un consapevole utopismo che non si sgomenta della realtà, bensì la tratta come un compito e un'invenzione. Dal proprio punto di vista e dalla propria storia personale, che non era, come diciamo ben sapete, una storia di grandi simpatie per il movimento di opposizione politico per la, insomma, sinistra europea, Musil però arriva lo stesso, in qualche maniera si riallaccia a quelle, in qualche modo anche a quegli slanci, e ci propone una cosa che si è poi, come dire, rivelata da un lato più semplice, più facile, dall'altro più difficile e più complicata nella storia successiva del secolo, di quanto gli utopismi o i post-utopismi, per esempio il marxismo, che naturalmente si è sempre demarcato a partire dal proprio fondatore dal socialismo utopistico precedente, ma che in qualche modo ne ha ereditato lo slancio, diciamo, diciamo, etico più appuntamente di quanto questi soggetti non avrebbero potuto pensare, e poi vedremo perché, insomma. Ma diciamo, allora partirei da qui. Come dire, c'è un invito che più o meno all'inizio del secolo, credo che Musi scriva questa cosa verso la fine degli anni 20, perché poi il problema, insomma, non sono un filologo musiliano, quindi su tutto il problema delle versioni e delle redazioni dell'uomo senza qualità ci sono stati fatti molti studi, ma credo che queste frasi siano prima della fine degli anni 20. Allora c'è un, diciamo, invito a considerare la realtà come una invenzione, non come qualche cosa di dato. È un tema che credo poi percorre tutta l'epistemologia del Novecento, in particolare l'epistemologia perché è quella su cui questo problema, ma anche credo altre, diciamo, riflessioni e altre zone della, come dire, filosofia, e che sarà poi ripresa da tutta una serie, era stata già, se volete, lanciata da un movimento come Dada, verrà ripresa pochi anni dopo dai, diciamo, surrealisti, trattare la realtà come un compito e come un'invenzione. Contemporaneamente, diciamo, in qualche modo Musil qui direi propone di rovesciare un pregiudizio che, come dire, prevalente, insomma, dentro la cultura occidentale, che ovviamente risale ad Aristotele. La svalutazione della possibilità nei confronti della attualità, la svalutazione della, appunto, di quelle che ancora sono le non ancora deste intenzioni di Dio rispetto a quelle che invece sono le intenzioni di Dio realizzate, quelle che sono appunto diventate attuali, risale più o meno ad Aristotele. Ora proporrei questa, un po' così all'ingrosso, insomma, ma questa, diciamo, lettura della radicale svalutazione della possibilità del potenziale rispetto all'attuale che faceva Aristotele, vedendola probabilmente nella sua, e poi forse un po' che era un atteggiamento un po' di tutta la cultura greca del quinto e del quarto secolo, il timore, addirittura il panico, il terrore dell'apeiron, cioè dell'illimitato, dell'infinito, di ciò che non ha confini, di ciò che non è facilmente, o diciamo difficilmente, ma che non è finitizzabile, insomma. La filosofia e l'antropologia greca classica, in ciò non c'è una grande differenza, credo, tra insomma, Platone e Aristotele, forse soltanto gli stoici dopo tenteranno in qualche maniera di porre questo problema in termini diversi, ma insomma la filosofia e l'antropologia in senso filosofico greca, come dire, prende atto radicalmente della finitezza della condizione umana e degli strumenti umani, e quindi in qualche modo propone di cautelarci in qualche maniera, come dire, accetta consapevolmente il vincolo, per usare diciamo un termine suggerito prima molto pertinentemente, direi, da, diciamo, Levotti, e però nel fare questo in qualche modo come dire, dà una preminenza a quel principio di realtà che è una per certi versi potremmo anche dire una palla al piede, insomma, una forte limitazione, per quanto consapevolmente assunta, giocata, eccetera, eccetera, che arriverà sino ad Hegel, sino alla identificazione di realtà e di razionalità nella costruzione, nella più grande filosofia, diciamo, totalitaria, insomma, che abbia prodotto la cultura occidentale, che è quella, diciamo, di Hegel, e a partire dalla quale, non a caso, si svilupperà Marx, che pur avendo sempre tentato in tutto il suo lavoro, in tutta la sua opera, di reagire e di chiudere e di spezzare questa gigantesca costruzione. Ora, che cosa è successo nel, diciamo, Novecento? Quindi, in qualche modo, diciamo, se stiamo alla appunto teorizzazione marxista, che è stata così importante perché poi è quella che ha informato di sé gli unici tentativi nel corso del, diciamo, Novecento di costruire di aprire davvero, cioè di prendere una intenzione di Dio non ancora desta e di realizzarla, partendo invece che hegelianamente dalla testa, o diciamo dal cielo, partendo dalla terra, partendo dai piedi, partendo dalla base produttiva, costruire questa alternativa. Da questo punto di vista, naturalmente, ma non ce ne siamo accorti nel 1989, potevamo già capirlo negli anni 30, naturalmente, nel 36 o nel 38 in Spagna. Da questo punto di vista il marxismo è stato un fallimento, perché non ci ha fatto uscire da quella particolare configurazione di intenzioni di Dio che si chiama società capitalistica, e al contrario sembra averla in qualche maniera paradossalmente rafforzata, cioè costruendo quella che era una illusoria alternativa in un sistema di stati e di paesi che si proclamavano non capitalisti ma erano poi in realtà capitalisti lo stesso con altre modalità, ha in qualche modo sembrato rompere, sembrato chiudere questo tipo di possibilità. E invece paradossalmente l'apertura alla possibilità è venuta invece da un'altra parte, da altri processi. Entrambi vedevano come in qualche maniera come l'incarnazione del sistema del male. È dal sistema del male, è dall'impero del male, è dalla tecnica, dallo sviluppo della tecnica capitalistica che è venuta nel secolo la più grande apertura alla possibilità, quindi la sconfitta in qualche modo della necessità o del principio di realtà, diciamo, tradizionale, è venuto da un processo, che paradossalmente sembrerebbe semplificare e svilire la realtà, dalla sua digitalizzazione. Soltanto quando tecnicamente l'uomo è riuscito a staccarsi dai modelli continuisti, analogici, per cui i sistemi fisici venivano rappresentati come delle grandezze che variavano con continuità, in cui la discretizzazione, il delta matematico, la differenza tra due piccole tra due valori, tra due quantità arbitrariamente vicine, era una forzatura. Tutta l'analisi matematica classica si basa su questo, sulla idea di fondo che le funzioni, quindi gli strumenti fondamentali della matematica, siano in qualche maniera funzioni continue, siano fluide, lisce, vadano avanti, e che sia soltanto per una nostra limitazione cognitiva che noi dobbiamo introdurre i delta, fare queste piccole quantità evanescenti che tanto turbavano i sonni di Newton e di Leibniz, che pure le avevano separatamente inventate. A lungo il discreto è stato in qualche maniera relegato da quando la matematica, sono molto contento che sia stato citato anche Gödel, perché Gödel è semplicemente il punto di arrivo di un processo di questo tipo, ed è il rappresentante di una come dire, anche lui di una sorta di rivincita del discreto nei confronti del continuo, perché tutta la grande matematica del Settecento e dell'Ottocento, quando diciamo matematica diciamo lo strumento concettuale principale con il quale è stata costruita la nuova scienza, la scienza moderna, e poi quindi successivamente tutte le sue applicazioni tecnologiche, cioè senza, senza funzioni continue, senza, senza teorema del Dini e senza cose, queste cose qua che sembrano e che sono in effetti così astratte, non avremmo avuto tutto lo sviluppo del, del macchinismo analogico classico della cosa. Ecco, a, a, diciamo, ad un certo punto di vista la, quella che poi nel, nel, diciamo, negli ultimi 40 anni è stata la, diciamo, rivincita tecnologica del discreto sul, diciamo, continuo, cioè del, come digitale su, sull'analogico, era già stata preparata agli inizi del secolo dalla riflessione sui fondamenti della matematica e dal grande lavoro prima, prima di Cantor, poi di Frege e diciamo di Russell, che tendeva a dire sì, guardate ragazzi, è vero che i nostri strumenti fondamentali sono le funzioni, il continuo eccetera, ma guardate che tutto quanto si basa, se non partiamo dai numeri naturali non ce la possiamo arrivare. Ora, e quindi Frege comincia questo grande principio, insomma porta a termine dal suo punto di vista nel 1901-1902 questa grande questo grande disegno di riduzione della come dire, matematica all'aritmetica e poi di riduzione dell'aritmetica alla, diciamo, logica, e insomma, quindi in qualche modo tenta di fondare sull'aritmetica tutte e due, insomma, queste sono grandi cose. Già il giovane Russell, come forse sapete, gli insomma, segnala alcune crepe di una certa rilevanza nel suo lavoro, cioè gli insomma, segnala il paradosso, appunto, che anche qui è come dire, molto interessante, perché il paradosso segnalato da Russell a Frege è quello su cui poi Gödel lavorerà e su cui arriverà ai due famosi teoremi di incompletezza, è proprio, guarda caso, un paradosso che riguarda la classe totale, l'insieme totale, cioè nel momento in cui la matematica ipotizza l'esistenza di un insieme di tutti gli insiemi, di una classe, di tutte le classi, da qui viene il, diciamo, l'antico paradosso di Epimenide, il, diciamo, cretese, quindi un tipo di fallacia logica già nota ai greci, senza però naturalmente che loro potessero diciamo, rivelarne l'immensa quantità, l'immensa portata, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo questo, e, dice, allora, e quindi poi quando vede nel 32, mi sembra il primo, nel 36, il, diciamo, secondo teorema, ma sulle date non posso essere, diciamo, sicuro, i due teoremi di incompletezza dei sistemi formali, ci dirà, dice, guardate che il barone di Münchhausen non può uscire dalla palude tirandosi per il codino, la, come dire, matematica non si può fondare, quindi tutta la scienza moderna non si può fondare, non si può autofondare, perché appunto quanto più il sistema è coerente, cioè scusate, quanto più il sistema è completo, tanto meno può essere coerente esattamente con la, con la stessa formula che ha usato prima, diciamo, Le Motti, quindi questa è la cosa. Quindi da un certo punto, diciamo, di vista era, diciamo, sembrato che questo, questo ampliamento e questa forza delle, come dire, possibilità fosse stata sconfitta, diciamo, sia sul piano pratico sia, come dire, sul piano della, della diciamo, attraverso la distruzione operata sia dal cosiddetto movimento comunista ufficiale sia dalla borghesia e dallo Stato, per esempio americano, quando tra gli anni 20 e gli anni insomma, 30 c'è la più pesante distruzione di un'organizzazione politica alternativa, che è la, diciamo, sconfitta del sindacato americano Industrial Workers of the World. Probabilmente è negli anni, negli anni 30 che si consuma la, diciamo, chiusura delle possibilità da questo punto di vista. Negli stessi anni si consuma la chiusura delle, come dire, possibilità dal punto di vista della, diciamo, teoria, perché assistiamo all'interno della scienza più nobile, più antica della storia dell'uomo, cioè la, come dire, matematica, ha questa dichiarazione di scacco totale che è rappresentata dai due teoremi di Gödel. Questo non impedisce naturalmente poi di andare avanti, insomma, e di andare a fare altre cose, però dal punto di vista della possibilità e della, come dire, fondazione, tutto questo viene d'un balzo e improvvisamente e immediatamente superato da un processo che avviene invece totalmente, completamente all'interno della, diciamo, tecnica, sarebbe molto istruttivo, qui non c'è il tempo, che nasce dalla guerra, che nasce dalla necessità di decrittare i sistemi, diciamo, crittati, di crittazione delle potenze dell'asse. Sull'Inghilterra riesce a fare questo genere di cose, è il progetto Enigma a cui lavorava Turing, e su quelle su quegli studi teorici, che non sono teorici ma sono anche pratici, perché attraverso quelle cose probabilmente gli alleati vinsero in larga misura, oltre che sulla bomba atomica naturalmente, la seconda guerra mondiale. Attraverso quelli poi arriva von Neumann, arrivano, e quindi vengono costruiti i calcolatori. E questo è un grande paradosso, naturalmente, perché una tecnologia che apparentemente è basata su una riduzione di possibilità, perché dice, cazzo, qua tutto è o 0 o 1, qui andiamo solo due le categorie fondamentali, non ci può essere. Attraverso questo però la possibilità, la potenza combinatoria di questa tecnologia genera una serie di applicazioni che improvvisamente riaprono e paradossalmente realizzano, in maniera naturalmente deviata, possiamo pensare, in maniera paradossale, certe volte anche in maniera da incubo, tutta una serie di sogni e di aspirazioni che erano stati della opposizione politica e della opposizione, diciamo, sociale. La tecnica ha fatto, la tecnologia ha fatto l'unica rivoluzione riuscita del secolo XX, che è appunto quella che, costringendoci in qualche modo anche a, prima, ripeto, ben prima dell'89, della caduta del muro, prima del 68, eccetera, eccetera, costringendoci in qualche modo a usare con un maggiore pudore anche la parola rivoluzione, che su cui avevamo, credo, insomma, tutti quanti, almeno molti di noi, su cui avevano basato molta parte della propria, vita. Ecco, allora, quindi questo è il primo paradosso che vorrei, diciamo, sottolineare, la questione delle possibilità. E possibilità sono, naturalmente, per quanto riguarda questo sconvegno, è un sconvegno sulle ibridazioni, e quindi, dal punto di vista umano dell'uomo, tutta una serie di, chiamiamole appunto, possibilità che già la cultura greca aveva sanzionato. Ricordiamoci da che cosa viene, da che cosa deriva la parola ibrido. La parola ibrido noi la usiamo così, ma insomma viene dalla ibris greca, quindi l'ibrido, l'ibris è un essere superbo, eccessivamente superbo, che sfida l'ordine del cosmos e che quindi come tale deve essere sanzionato. Il grande nemico di Ibris è Ananke, è la necessità, è la ferrea legge che quindi l'ibrido è un essere destinato alla sconfitta. Il centauro e la chimera, eccetera, eccetera, esistono solo per essere picchiati da, diciamo, i centauri, da Teseo e da Pirito alla festa di nozze dei Lapiti, di Polamia, e la chimera, sono tutti esseri mazzolati, stanno lì per dirci, una volta c'era il caos, ma mo è arrivato Zeus, c'è l'ordine, e all'ordine non si sfugge, Ananke vi farà tutti fuori. Gli ibridi contemporanei sono ibridi che se ne strafregano di Ananke, inseriscono nel proprio corpo quello che vogliono, dagli orecchini sul sopracciglio che sono le, come dire, forme più semplici e più però abbastanza forti, insomma, ai chip di cui parlava prima, diciamo, Formenti, senza più il timore di essere sanzionati da alcuna cosa. Perché Il tardo capitalismo, a differenza dei suoi, come dire, predecessori, ha questa terribile e favolosa per certi versi, spaventevole per altri, apertura alle, come dire, possibilità e al possibile. Quando il grande ciclo di lotte operaie, studentesche, mondiali, insomma, della fine degli anni, diciamo, della metà degli anni, diciamo, 60, che va dal 64, dal 63-64, dal Free Speech Movement americano, al 68 e al 69, diciamo, cinesi, delle varie ovviamente differenze, eccetera, eccetera. Insomma, questo grande ciclo di lotte che cosa ha prodotto all'interno della società americana? È quella che in qualche maniera Marcuse non aveva poi tanto torto nel, diciamo, definire tolleranza repressiva. Cioè, oggi, come dire, nel sistema culturale degli, come dire, Stati Uniti, magari forse non nelle strade di tutte le cittadine del Midwest, ma c'è un diritto di cittadinanza, come dire, totale per tutti gli ibridi culturali e fisici possibili dal punto di vista, per esempio, del comportamento sessuale. Si può far parte di tutti i gender possibili e immaginabili, ci sono addirittura nelle università dipartimenti di gender studies, di cultural studies, che come in qualche maniera legittimano qualsiasi espressione di differenza, di diversità, anche di perversione, diciamo, sessuale. La cosa importante, però, c'è un prezzo ovviamente da, come dire, pagare per questo, cioè è il prezzo, quello dell'assoluta irrilevanza sul piano, diciamo, sociale. Insomma, basta non contare nulla, basta far parte di una minoranza irrilevante, e nel sistema americano si verrà in qualche maniera, diciamo, protetti. Ripeto, questo non salverà nessun gay o nessun, diciamo, travestito o nessun transessuale dai pesanti apprezzamenti dei camionisti sulle grandi strade di comunicazione. Però, da un certo punto di vista, questa legittimazione delle possibilità in qualche maniera c'è stata. Questo è il paradosso, insomma, questo è il fatto, cioè noi abbiamo, si acquisisce una grandissima libertà pagando però naturalmente il prezzo della, diciamo, irrilevanza. Ora, naturalmente, il fatto che l'ibrido in qualche maniera perda il proprio carattere, di opposizione all'ordine costituito, come è l'ibrido greco, per praticare invece la più borghese, modesta e accettabile pratica della trasgressione, quando si passa dall'opposizione alla trasgressione, ormai praticamente trasgrediamo, trasgredire è qualche cosa che è diventato connaturato alla, diciamo, esperienza, tardo moderna contemporanea. Chi non trasgredisce sta fuori dal gioco, naturalmente si trasgredisce, quindi per esempio il sabato sera nelle, diciamo, discoteche, poi la cosa non ha alcuna, diciamo, rilevanza dal punto di vista degli altri, come dire, 7 giorni. Questo poi non vuol dire che all'interno di questi processi non possono maturare, anzi probabilmente maturano le uniche cose oggi vitali, interessanti, eccetera, però certamente tutto questo, ripeto, si paga con un certo prezzo. Voglio chiudere con un altro interrogativo che anche oggi è stato posto, che ha posto prima Carlo, diciamo, Formenti, che è questo, quando noi analizziamo i processi, diciamo, culturali e lo sviluppo di una, come dire, cultura, abbiamo sempre probabilmente una scelta tra due, come dire, possibili modelli, insomma, come sempre, tra un modello continuista, evolutivo, cioè quello che capita adesso è il risultato, è il prodotto di quello che è capitato prima, e quindi per esempio si chiedeva, diciamo, osservava giustamente per, insomma, a certi punti di vista, Formenti, il cyborg, tutto sommato è una possibilità che è già implicita nella specie in quanto tale, cioè l'inserzione della tecnica all'interno del corpo è qualcosa che potenzialmente è già contenuto nel gesto del primo australopiteco, insomma mitico, che normalmente non c'è, ma insomma dell'australopiteco che impugna il chopper e sta lì per due o tre giorni di fila per scheggiare una selce e farla diventare uno strumento tagliente. In quel, diciamo, gesto, in quanto c'è dentro, in quel gesto tutta l'umanità, l'umanizzazione, tutto il divenire uomo di questa, diciamo, specie, c'è dentro anche il cyborg. Quindi il cyborg in qualche modo è semplicemente un prodotto, è una tappa ulteriore di questo, diciamo, processo. Quindi da un certo punto di vista, diciamo, perché scandalizzarci, non dico per l'orecchino come il sopracciglio, ma neanche per il chip sotto la pelle. Sono tutte cose che in qualche maniera fanno già parte del destino della specie. La specie non sarebbe tale, non saremmo uomini se oggi non fossimo anche cyborg. Quindi in qualche modo questo vanificherebbe tutte le teorizzazioni su postumano, transumano, eccetera, eccetera, perché l'uomo sarebbe stato, da questo punto di vista, in qualche maniera da sempre destinato a negare la naturalità del proprio corpo e ad aprirsi alla ibridazione con la macchina. È anche vero però che da un certo punto di vista atteggiamento di questo tipo troppo integrale ci renderebbe difficile, non ci farebbe comprendere invece se ci sono davvero delle, diciamo, novità, e probabilmente nella attuale fase di transizione al postumano, che sia, come dice Moravec, perché ci sarà il download di personalità, o che sia, come dicono altri, perché la soggettività scomparirà in un sistema integrato più vasto, uomo, mondo, eccetera, eccetera. Poi dico, le forme possono essere le più varie, ma se siamo in una fase in cui il termine di postumano può essere stato una irritante invenzione di alcuni critici d'arte e di alcuni artisti in vena di bizzarrie, però in qualche modo ci dice qualcosa sulla nostra esperienza concreta, insomma, quando appunto si leggono, adesso sono contento perché magari Riccardo li sta già raccogliendo lui, evito di raccoglierli io, come stavo già facendo, tutti i casi di inserzioni di chip concreti, cioè operazioni già fatte, cose che stiamo vivendo in questi anni, cose che se uno le diceva 10 anni fa, quando io scrissi nell'85, pubblicai un librettino che si chiamava Il Cyborg, non dico che sia stato il primo, l'unico, ma insomma era una delle prime volte che in Italia, era la prima volta che comunque compariva un libro con quel titolo, eccetera, ma insomma, e parlavo quasi esclusivamente di fantasie degli, come dire, scrittori di, diciamo, fantascienza, e mo siamo a poco più di, insomma, siamo a quasi 15 anni dopo, e molte di quelle cose nel giro di 15 anni, cose che tutti all'epoca, io insomma stesso, pensavamo che ci sarebbe, chissà se ce la faremo, si stanno realizzando ad un ritmo molto più rapido di quello che noi avevamo, diciamo, previsto. Quindi in qualche come dire, maniera il salto c'è, e all'interno di questo salto c'è una contraddizione molto forte che ha già segnalato anche qui Carlo, e che è questa: in questa grande apertura di processo di, come dire, possibilità, le due dimensioni che Remotti lo potrebbe spiegare molto meglio di me, credo, che i meccanismi culturali di qualunque società hanno sempre normato, normalizzato, armonizzato, mediato, cioè la dimensione collettiva, la dimensione della comunità, della collettività, e quella della esperienza corporea, della irriducibilità del corpo singolo ad altri corpi, e quindi della necessità di... Questo è un problema che oggi sta scoppiando. Perché? Perché, come dire, proprio sul piano di questo grande allargamento di possibilità. Perché da un lato questa, diciamo, la meta è un po' difficile, la possibilità di sperimentare possibilità, diciamo, avviene prevalentemente a livello dell'individuo e sempre di più a come livello del suo corpo. Ora, come dire, l'intangibilità della frontiera fra interno ed esterno, che è la pelle, è sempre stata in qualche maniera, credo, probabilmente uno dei più fondamentali processi di stabilizzazione culturale. Cioè, se uno fora, se io foro questo schermo che c'è tra me, tra, diciamo, l'interno e, diciamo, l'esterno, questo può significare solo morte, può significare solo la ferita, è un processo traumatico che non è, come dire, visto bene, ed è per questo, insomma, che in quasi tutte, credo, le società conosciute si sanziona l'assassinio o lo si rende legale avvocandolo poi, quando la società è particolarmente, diciamo, strutturata, al potere politico, cioè l'unico che può decidere se ammazzare o no un altro. Ora, oggi, questo, quando io invece oggi, appunto, ripeto, faccio sempre, insomma, i due esempi stupidi, ma insomma, quando mi metto l'orecchino sul sopracciglio o anche in altre zone più, diciamo, riposte, più sensibili del corpo, o quando mi inserisco il chip sotto pelle, la violazione di questo confine fra interno ed esterno non significa più soltanto morte, può anche significare vita per il malato di insulina, di suo diabete, che ha bisogno di regolare l'insulina. Il chip sotto la pelle significa che lui può sopravvivere, non che muore. Allora, in qualche modo, diciamo, da un lato noi siamo forzatamente costretti a ridefinire il confine, a prendere atto in qualche modo che il confine tra interno ed esterno culturalmente sta cambiando, che non possiamo più considerare interno ciò che consideravamo interno ed esterno ciò che consideravamo esterno fino a ieri. E molto ovviamente questo porrà notevoli, diciamo, problemi, perché naturalmente senza una divisione, una distinzione tra interno e, diciamo, esterno, intanto anche la cellula muore, perché anche la cellula si basa, no, se non vado errato, proprio su questa differenza, su questa membranina di confine che c'è tra l'interno e l'esterno, da un lato. Però tutto questo avviene a, diciamo, un livello iperindividuale, riguarda il singolo. Contemporaneamente ci sono tutti gli altri processi che attualizzano fortemente la nozione marxiana di general intellect, a prescindere da come poi si, diciamo, realizzino. Anche qui è una specie di incubo questa realizzazione della come dire, dimensione collettiva, perché se significa che tutti dobbiamo usare i sistemi della Microsoft e dobbiamo farci andare il computer in crash, come capita ogni tanto anche al mio amico Carlo, ogni tanto capita a me, capita a tutti, o comunque se dobbiamo, come dire, soggiacere a questa oggettivizzazione del general intellect mediata dall'appropriazione capitalistica del signor Bill Gates e della sua, come dire, Microsoft, e questo sarà un, come dire, problema. Ecco, però come conciliare, come possono convivere queste due, diciamo, dimensioni, quella della iperindividualità, e addirittura in certi casi della scomparsa della, diciamo, identità o della fluttuazione della identità, pur mantenendo l'individuo una sua autoriconoscibilità propria, con l'inserzione delle esperienze e degli aumenti del possibile, delle dimensioni possibili all'interno del processo più, diciamo, generale. Ora, io credo che questa sia la... Ecco perché, quando parlo di estasi del cyborg, parlo proprio di questo, cioè, gran parte di ciò che l'uomo ha sperimentato come puro stato mentale, per esempio l'estasi, no? Che è una uscita da se stessi senza che nel proprio corpo avvenga alcunché di visibile, se non una catatonia, anzi una sorta di fissità. Questa è l'estasi, come dire, tipica, classica mentale. L'estasi del cyborg è una uscita da sé, ha molte caratteristiche simili all'estasi del mistico, ma è una estasi che, come dire, da un lato si produce in qualche maniera anche fisicamente, perché parti del corpo o delle funzioni del corpo migrano dall'interno del corpo all'esterno, si oggettivizzano, si concretano, si mettono insieme, si combinano dentro i grandi sistemi telematici, quindi dentro la rete, e arrivati a, come questo punto, si pone un interrogativo fondamentale: come avviene il ritorno? Qual è il processo attraverso il quale questo general intellect, se è davvero un buon general intellect, mi ritorna, ritorna per arricchire me, l'individuo da cui è partita quella cosa? Quando, diciamo, attraverso quali cose può avvenire che il Dio di Averroè e di Avicenna, i quali anche loro, come ti ha spiegato Pierre Lévy, concepirono nel XII e nel XIII secolo una sorta di processo di collettivizzazione in qualche maniera analogo a quella creazione di Dio di Teilhard de Chardin, di cui prima ci parlava Carlo Formenti, diciamo, se questo general intellect deve essere un buon general intellect e non un cattivo general intellect, come tornerà, diciamo, a me? Questo è probabilmente il più grosso problema del che abbiamo di fronte nel prossimo futuro: come conciliare l'estasi del cyborg con la propria esperienza e con l'arricchimento dell'esperienza della, cioè come si può rientrare in se stessi in qualche modo dopo esserne usciti, come si può non perdersi totalmente e completamente all'interno della grande anima, della grande mente, del grande pensiero della rete, come imparare a navigare continuando a sapere che ogni tanto possiamo tornare a casa. Magari saranno tante case diverse, saranno tanti piccoli posti in cui abbiamo la roba, ma come possiamo fare questo? Se non risolviamo questo problema, credo che, come dire, purtroppo né Bill Gates questo problema, perché Bill Gates ce lo vuole risolvere semplicemente costruendoci la sua casa, così noi tutti a diciamo tornare e a migrare nella sua casa e non, diciamo, nella nostra, né diciamo, però per il momento sta ancora dimostrando alcuno di voler, diciamo, risolvere questo problema. Però questo credo che sia, che insomma, sarà, se non il problema, uno dei problemi fondamentali dei prossimi anni. Vi ringrazio.